parole, se non ne avremo più per noi. Non ti cercherò se tu non vuoi. Parlami, magari guardami, ci basterà soltanto un'ora. E quando avremo un po' paura, se dopo avremo un po' paura, ci lasceremo come prima per ignorarci ancora. Ascoltami, ci crederai, mi crederai. Io non avevo più parole, non che ne avessi più per te. Non ti sapevo più stupire, non sapevo più perché. Tanto amore, tutto l'amore che ho per te, e non volevo più nascondere.